sono solo nuvolette. Dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. E la domanda è: quanto nerd può essere un uomo? Nel mio caso tanto, perché questa sigla continua a piacermi un casino di volta in volta. D'altra parte qui stiamo parlando di radici della cultura nerd, Star Wars, che poi adesso è diventato mainstream, capitano queste cose qua, succedono queste cose. E tornando in onda questa settimana abbiamo il piacere di avere con noi Andrea Musso, illustratore. Ciao a tutti. Che sta armeggiando con l'iPad e non ha ancora messo bene la cuffia, ma lo perdoniamo. Ma io ne tengo una sì, una no, se no mi sento troppo rimbombato nel cervello e già capisco poco. Ah, ok. Che ha anche portato, oltre a qualcosa di molto segreto che su cui potrà buttare un occhio giusto chi ci guarda in webcam in diretta e poi andrà perso per sempre nell'etere, come il messaggio, era come la missione di Mission Impossible, che questo messaggio si autodistruggerà entro 30 secondi, cose così, no? Ma speriamo ci dia un attimo di più. Quando Mission Impossible era nerd pre-mainstream, succedono queste cose qua. Invece, Andrea Musso, illustratore di questa bellissima serie per bambini, che... Il problema di dire per bambini sembra di sminuire, invece tutto il lavoro importante che c'è dietro anche nella ricerca stilistica è Gatto Killer, pubblicata da Edizioni Sonda, di questa scrittrice Anne Fine, che direi che è inglese o americana? È inglese. Inglese, ok. E la particolarità è comunque questa, che c'è un illustratore italiano che illustra un libro di acquisizione di diritti. Come è andata? Sei come l'illustratrice italiana che ha illustrato Harry Potter la prima volta? Stai dando un flavor italiano, il tuo stile, a qualcosa che magari diventerà un nuovo Harry Potter? Allora, intanto sei esagerato. In secondo luogo, sì, io come ogni buon illustratore fondamentalmente... Vorresti dirmi Gavtellanata alla Umberto Eco, no? Visto che poi Umberto Eco era è alessandrino, quindi... Sì, sì, è molto alessandrino. No, la cosa che non abbiamo detto, no, perché noi lo sappiamo, ma hai anche... sei anche venuto fin qui da Alessandria, quindi intanto ti ringrazio per... il percorso fatto, la tanta strada fatta per venire qui a Settimo. È un piacere averti qui. E il discorso è: come è andato a finire un bravissimo illustratore alessandrino a illustrare quello che può essere, che è già un buon successo editoriale di autrice straniera? Beh, intanto Anne Fine si è tradotta tipo in 27 paesi del mondo, quello che spesso nessuno sa finché non legge la mini bio che c'è all'inizio. E che lei è anche l'autrice del libro da cui hanno tratto poi il film Mrs. Doubtfire. Ah, ok. Ecco, quando dico quello tutti dicono ah, ho capito. Ah, okay. Perché i libri piacciono tanto, però poi fondamentalmente un bel film con un bravissimo attore se lo ricordano poi tutti. Esatto. Ecco, lei è molto brava a scrivere non soltanto per bambini, cosa che mi mette un po' in difficoltà quando dico i libri per bambini, perché poi il contrario sarebbe libri per adulti, e però è un po' troppo dall'altra parte. Esatto. Quindi in realtà lei scrive fondamentalmente, e alcune cose hanno un argomento che è più adatto ai più giovani, altre cose invece sono magari adolescenziali o per tutti. È una bravissima autrice, i suoi libri, i primi della serie del Gatto Killer, erano usciti alla fine degli anni 90. E quindi è qualcosa di già consolidato nel tempo, non hanno perso smalto. L'editore forse ha reputato che per il mercato italiano quelle illustrazioni non fossero l'ideale, e siccome un libro non si giudica dalla copertina, ma lo sappiamo che in realtà lo facciamo, esatto, molto intelligentemente ha detto: ok, cerchiamo qualcosa che per noi sia adatto. E quindi fortunatamente io, come ogni buon illustratore, quando mi dicono c'è una cosa da illustrare, la risposta, se il progetto è interessante, è sì. Non mi sono chiesto più di tanto perché non avessero voluto tenere le illustrazioni originali, ma ho detto eccomi qua. Abbiamo fatto un po' di prove, loro sapevano che gli animali, e hanno visto un po' di cose che io ho illustrato sull'argomento, visto che mi interessa personalmente, avevo un po' di background e mi hanno dato abbastanza carta bianca, che è un'altra cosa particolare, okay, che non succede quasi mai. Anche perché non stiamo parlando solo della copertina, ma trattandosi di un libro per questo tipo di mercato ci sono tante illustrazioni dentro, quindi in realtà dall'illustratore, dallo stile scelto dall'illustratore dipende... Può dipendere l'esistenza stessa, il successo stesso del libro sul mercato? È una bella fetta l'illustrazione. Le prime letture, in questo caso, hanno una trentina di illustrazioni dentro che secondo me non descrivono quello che succede, ma aggiungono dettagli. Certo. Se no non avrebbe molto senso, credo, mettere le illustrazioni. Io cerco sempre di fare un ragionamento dove aggiungo qualcosa. Sento anche molto la responsabilità, perché se mi arriva un libro nudo, senza le illustrazioni, non l'ho voluto vedere l'originale, devo scegliere quali sono i punti che mi piacciono di più, che mi comunicano, che mi divertirebbe illustrare, e cerco quindi di trovare un qualcosa e un quid in più. E questa cosa qua mi dà un senso di responsabilità, perché poi l'immaginario che si crea attorno, io me lo ricordo per i libri, per i fumetti che leggevo da piccolo, mi ha segnato a vita, ed è anche quello che mi ha dato la voglia di fare questo lavoro, e quindi sento la responsabilità nei confronti dei giovani lettori che potranno magari apprezzare o meno quello che ho fatto, e mi sono impegnato parecchio. C'è un lavoro senz'altro artistico ma anche di artigiano nel calarti in questo contesto, cercare di dare la miglior resa possibile a un testo originale. Sì, l'illustratore non è un pittore e quindi fa sempre un lavoro abbastanza ragionato se sa fare il suo lavoro prima. E io ad esempio ho scelto, pur sapendo che l'autrice era inglese, di non inserire dettagli che fossero prettamente inglesi. Okay. Ho fatto una scelta però leggermente retro, ad esempio sugli oggetti o su una certa atmosfera. Quindi ho cercato di dare un'atmosfera nei dettagli di questo libro. Anche se in realtà molti aspetti, tipo la copertina dell'ultimo, vedrai che c'è una televisione su un mobiletto verde acqua. Ecco, questo mobiletto qua è in salotto di fianco al mio divano, cioè è proprio quel mobiletto lì. Nel primo libro la veterinaria che compare, che vorrebbe visitare il gatto killer, che poi viene morsa. In realtà io sono andato in studio dalla mia veterinaria a vedere un attimino le cosa usa il veterinario per lavorare, così da inserire degli oggetti che fossero ragionati, e poi alla fine c'è finita la veterinaria intera nel libro perché è proprio lei, si chiama Nicoletta, e quindi per me c'è un qualcosa in più. Inserire quel qualcosa in più dalla piccola cosa alla grande cosa è comunque un contributo che alla fine penso si veda. Sì. C'è tanto lavoro quindi di scelta delle singole immagini, di scelta dello stile di per sé penso che quello che stai dicendo tu è che è molto importante anche il rispetto però per l'opera originale. Sì, infatti lei, essendo un'autrice molto ironica, con il classico humor inglese, tant'è vero che quando leggono Gatto Killer a volte i genitori mi guardano un attimino preoccupati e dicono no, ma è soltanto un fraintendimento, un errore giudiziario, che nel senso viene accusato di cose che non ha fatto, un po' come dicono da noi sempre i politici, ma in questo caso è più o meno vero. Ah, okay. Quindi anche il fatto che lei abbia dato un titolo così di rottura, sì, al libro, che volendo non è la classica cosa rassicurante. Sì, sì. È un qualcosa che ritorna in tutto il libro, cioè questo qua è un gatto con una forte personalità a cui non va che gli rompano le scatole, che ha delle sue idee, che ha dei gusti sul mangiare e sulle cose che può fare e che non può fare, per cui si scorna molto col papà della bambina che è in copertina, col padrone di casa, e quindi decide di fare molte delle sue avventure, nascono anche a causa del suo caratteraccio, volendo. Rispecchia molto bene un qualcosa di spessore, motivo per cui a volte anche leggendolo, pur non essendo più nella fascia di età per cui il libro è consigliato dai 7-12 anni, alla fine dici, beh, però è divertente, cioè quando ci sono più piani di lettura in generale, sì, perché è un buon racconto, c'è una buona, esatto, idea di partenza, poi ognuno coglie l'aspetto che lo può divertire di più. Io ho cercato di fare un qualcosa che divertisse in primis me. Quindi ad esempio ho scelto, sapendo che all'interno le illustrazioni erano in bianco e nero, di farle a mano. A volte me lo chiedono, usi il computer, non usi il computer. Infatti la cosa nascosta che tengo qua sul tavolo, che adesso svelo, non è nient'altro che la copertina originale. Oh, che meraviglia. Quindi ho portato l'acquerello della copertina originale, che nasconde sempre un qualcosa che nel retro non si vede perché c'è un fascione con delle scritte di presentazione che copre quella zona lì. Io so che quella zona sarà coperta, okay, e ci nascondo qualcosa fin dalla prima edizione. Ha portato bene e continua a farlo, e quindi la copertina originale così com'è la vedi acquarellata, e quindi ai bambini durante le presentazioni spesso dico è fatto sulla carta, coi pennarelli, coi pennelli, coi colori, non c'è Photoshop, non c'è computer, quindi è qualcosa che si può fare senza effetti speciali, senza app. Sì. Ed è un qualcosa che io, essendomi formato a cavallo tra i due mondi pre e post digitale, mi piace usarli tutte e due, ma ogni tanto mi piace calcare la mano dicendo, cioè comunque per secoli abbiamo fatto senza che ci fosse una versione con l'aiutino. Ecco, magari l'aiutino serve nelle ricerche fotografiche, serve in tanti altri aspetti. In quello illustrativo volevo che ci fosse il calore dell'acquerello, e quindi questo è stata la scelta e questo è il risultato. Questo è molto molto interessante, anche perché credo che la cosa più importante, l'estetica digitale ha i suoi difetti, nel senso che ci aspettiamo tutta una serie di colori, eccetera, che poi a volte è anche una perdita, perché non tutta la gamma espressiva può essere data dal digitale, della pittura, dell'illustrazione può essere data dal digitale. È questione di padroneggiare le tecniche, innanzitutto quelle analogiche. Ne parliamo subito dopo la canzone. Qui partiamo con una canzone che è molto analogica. E forse il pezzo jazz rock più famoso di tutti i tempi. Come il signor Joe Zawinul se ne sia uscito un giorno con questa melodia, magari non era lui, è stato Shorter, però come se ne sia uscito con questa melodia un giorno non lo sappiamo. Fatto sta che rimane una delle più belle melodie di tutti i tempi, anche nelle varie interpretazioni dei Weather Report, eccetera. Parliamo di Birdland. We'll be right back. erano solo nuvolette. Dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. E infatti quando si viaggia attorno alla cultura disegnata e dentro, capita di incontrare illustratori come altri ospiti che abbiamo avuto, ma come Andrea Musoggi, con cui è un piacere chiacchierare anche delle tecniche, eccetera. E noi ci siamo messi a chiacchierare fuori onda. Ho detto, aspetta un momento, non voglio farti ripetere le stesse cose. Sfumiamo i pur eccezionali Weather Report, perché tanto il grosso della canzone si era sentito, poi la buon'anima di Joe Zawinul apprezzerà, perché apprezzava sicuramente l'arte, come ogni buon musicista. La cosa divertente, Andrea, ti lascio a te l'onore di alzarlo verso la webcam, è che è uscito fuori un altro da questa scatola magica di raccoglitore, esce fuori la versione a matita dello stesso disegno. Sì, perché la follia porta a sapere che vai in radio e quindi ha portato tante cose da far vedere, perché non sapevo ci fosse la webcam, quindi le ho portate comunque, in realtà le ho portate perché è sempre interessante vedere da dove nasce. Quindi sì, nasce da questa, okay, e da questi fogli normalissimi da fotocopia, sì, dove uno fa gli schizzi. Sì, non bastano quella e quella per fare quel disegno lì, ci vuole l'ingrediente autore, però vabbè. Beh, se l'autore ha queste cose qua sotto mano, okay, riesce a fare quello, okay, che deve. Stavamo dicendo che in realtà la scelta di fare tutto ad acquerello nasce perché volevo avere un certo risultato e tutto quanto, sì, ma perché mi piaceva vedere impilati 30 fogli uno sull'altro e vedere fisicamente che volume fanno, una cosa che con i file a computer non riesce a fare, okay, e quindi ho scelto, ma anche perché in realtà sono più veloce in quel modo, ho scelto una tecnica che mi permettesse di avere un ottimo risultato e alla fine di avere anche degli originali, perché a me piace toccarli, mi piace la carta, mi piace l'acquerello, mi piacciono le sfumature. E anche... Dicono che è un trucco per gli scrittori che oramai si scrive direttamente sul computer, per riuscire a motivare qualcuno a completare un romanzo, di stamparlo comunque, perché nel momento in cui vedi aumentare questa pila, capisci di star facendo qualcosa, di non star solo mettendo dei caratteri caso. Quindi anche la fisicità dell'oggetto, dell'originale, penso che... Adesso ti svelo un piccolo segreto. Quando fai il libro, se hai poco tempo, okay, come a volte purtroppo succede, il primo l'ho terminato in una settimana, l'illustrazione, okay, dell'interno, il che vuol dire un discreto lavoro al giorno. E la mia fidanzata ha il vizio di dirmi: a che punto sei? Questa è la domanda che non dovete mai fare a qualcuno che sta affrontando un lavoro un po' lungo, okay, e di corsa, perché ti viene l'ansia. Quando ti dicono a che punto sei, tu sì, hai la pila dei fogli da una parte che hai già finito e quelli che devi ancora finire. Finché più o meno non si equivalgono, non li conti, okay, perché se li conti ti viene l'ansia, okay, se ti viene l'ansia sbagli, okay, se sbagli devi rifare, e se rifai è un casino perché non fai in tempo. Quindi posso dire che su 5 libri, 150 illustrazioni, non è stata buttata via neanche una, il che mi fa piacere, nel, beh, senso che ho ottimizzato avendo origini verso il genovese e non, okay, ho sprecato. Sfatiamo un altro mito, perché poi con internet girano tante scemenze, tipo per esempio il fatto che c'è questo schemino della timeline di un lavoro, di un'illustrazione, per esempio, che comincia... È verissimo. Quindi anche tu fai l'ultima parte tutto urlando, perché nello schema c'è tre quarti rilassato, poi all the work, c'è l'ultimo scheggia che l'artista impazzisce e fa tutto piangendo. Sistemi la musica, la postazione, mescoli i colori, tiri fuori le cose, posti due robe. No, scherzo. In realtà non è così. Certo, l'adrenalina è uno dei componenti fondamentali. Vabbè, insieme, sì, al colore. E anche un po' di ispirazione o entusiasmo, chiamiamola come vogliamo. No, adrenalina. Guarda, okay, l'entusiasmo e l'ispirazione quando mi dicono: ma come fai ad avere tutte quelle idee? Guarda, basta che conti il tempo che ti resta per finire un lavoro e improvvisamente fioriscono, okay, tantissime idee, perché è una diretta conseguenza dell'ansia. Ok. No, se hai tantissimo tempo è vero, a volte tendi un po' a perderlo. Io purtroppo in genere capito sempre in progetti dove tantissimo tempo non me lo danno, okay, e quindi è un aspetto che... Vabbè, ma immagino che tu utilizzi bene il tempo che hai. Su, adesso salto, togliamo, subito all'ultima fase adrenalinica. Esatto, ok. E come fai a saltare direttamente a questa fase adrenalinica? Mi telefonano e mi dicono: guarda, per la settimana prossima bisogna finire. Io immediatamente sono ispirato, ok, e scatta, ok, fantastico. È così. E invece il passaggio dalla matita all'acquerello, mi dicevi che c'è un... lo utilizzi la matita perché... A me ha colpito anche che in realtà l'originale matita e quello d'acquerella siano due diversi. Io ho detto: o ha rifatto lo stesso disegno ed è bravissimo a copiare se stesso, oppure la matita la bozza in qualche modo utilizzata per... Sì, ci sono tecniche come questa d'acquarello, che poi in realtà sono dei colori che utilizzo americani, concentrati per andare sul nerd, che si chiamano Dr. Martins. Okay. E questi colori qui sono brillantissimi e fanno impazzire i tipografi, ma sono divertentissimi da usare. Se li usi su un foglio d'acquerello dove hai già pasticciato con la grafite, dove hai già cancellato con la gomma, eccetera, è come voler fare un lavoro pulito su un campo minato. È un disastro. Quindi per poter lavorare bene bisogna avere un foglio pulito, più che altro il più possibile non pasticciato. Questo mi ha portato negli anni a sviluppare questa tecnica che mi permette di fare degli schizzi su dei fogli normali, poi con un fantastico tavolo luminoso, tecnologia veramente old style, ricalco col pennarellino facendo le modifiche che mi vengono da fare sul definitivo, e poi una volta staccato dal tavolo luminoso passo all'acquerello. Quindi alla fine in effetti restano la matita e l'esecutivo su due livelli separati, su due fogli staccati, anche se in realtà la lavorazione è stata molto normale per me. Quindi dividi fisicamente i layer, oramai sono tutti layer di Photoshop, invece essendo oggetti fisici a quel punto lì i due livelli sono distinti. Ragionare come in Photoshop nella vita reale aiuta, non c'è il Ctrl Z, ma va bene. Vabbè, pazienza, ne facciamo a meno. E proprio perché non c'è il Ctrl Z, capita in corso d'opera di dover cambiare rotta e scegliere, fare determinate scelte che magari sono anche motivate da un aggiustamento e magari poi il risultato finale è anche migliore? Allora, se faccio degli schizzi, sì, se faccio degli schizzi specialmente nei blocchi da schizzi, quindi magari comincio a disegnare una persona perché sono nella metropolitana e se non sto con le mani impegnate a disegnare non mi diverto, e allora lì nella vita reale sì, se si sposta magari il disegno cambia in conseguenza. Sui progetti così invece motivati e ragionati, no, tendenzialmente diciamo che queste 150 illustrazioni che ho fatto, mi vanto di non aver fatto mai mezza macchia o di non aver mai rifatto un disegno, perché comunque in 20 anni un po' di capacità pratica c'è, e quindi se la abbini insomma un contenimento degli errori, diciamo. Sì, caffeina, colori e un po' di esperienza eviti di fare casini. Forse sei anche tu in grado di scegliere i momenti più operativi, più di maggiore concentrazione rispetto a quelli magari in cui hai più rischio di sbagliare. No, no, mi rompono le scatole tutto il giorno al telefono mentre sono a metà di una pennellata, oppure magari la copertina la faccio nella notte precedente alla consegna, quindi no, non sono i momenti ideali. Diciamo che nervi saldi e caffeina. Polso in entrambi i sensi, visto che polso per disegnare e polso per controllare la situazione. Mano da chirurgo. Mano da chirurgo, beh certo. E una certa fermezza, una certa sicurezza penso che sia indispensabile, e a maggior ragione si sviluppa col tempo. Sì, hai quella certezza che anche se hai poco tempo, insomma dici dai, ce la posso fare. Vale, a me lo disse una volta Dindo Capello, il pilota da 24 ore di Le Mans, che in realtà è solo questione di conoscere i propri limiti. Se tu conosci i tuoi limiti... A volte sono esperienze umane interessanti, cioè vedere fino a quando reggi e fino a quando sei lucido. Sì, a me piace fare un periodo intensissimo e poi dormire due giorni magari. È bello. Vabbè, sei qui a raccontarlo, quindi non hai avuto conseguenze gravi. No, no. Ok, mandiamo la seconda canzone. Che anche in questo caso, avevo in testa delle melodie, ho pescato un po' le canzoni in base all'ispirazione, con Alessandro che mi guardava fisso come al solito e diceva: ma da dove la pesca ste idee? Lui voleva, dillo, ammettilo Alessandro, volevi prendere quattro canzoni a caso. Io ho preso quattro canzoni a caso, però dalla mia testa, che è più o meno lo stesso. Comunque, Jerry Rafferty, Baker Street. Oh, Sono solo nuvolette. Dai fumetti al pop. Viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. E in questo momento in studio è un peccato non avere un pubblico, perché sta cominciando a succedere una di quelle cose, le parti belle di avere ospiti degli illustratori, perché Andrea Musso, l'ospite di oggi, illustratore per il Gatto Killer e tanti altri progetti, di cui magari poi, su cui, vabbè, ce la posso fare, è un po' raffreddore, un po' il fatto che le mie, proprio le sinapsi non è che siano tanto in partenza, e poi sto guardando nascere direttamente un disegno. È partito dagli occhiali, questo è un po', vabbè, peccato. Io parto sempre dagli occhi. Ah, ok. Non so perché. Ma questo l'ha detto Stefano Frassetto, che per definire un'illustrazione lui fa ritratti per La Stampa, e dice, per il quotidiano La Stampa, e lui dice che gli occhi sono quelli che caratterizzano sempre i personaggi, quindi si parte sempre dagli occhi, quindi penso che... Ah, io lo dico anche ai bambini durante gli incontri, quando mi chiedono come si fa a fare quello che faccio, io gli dico sempre, guarda, non lo so, nel senso che io metto giù la matita e lo faccio, nel senso, so che lo faccio da tanto, ecco, quindi non mi ricordo più esattamente come si comincia, ma ti posso dire che quando comincio, per un motivo o per l'altro, credo che se azzecchi lo sguardo e azzecchi... il punto centrale dove poi quando guardi una persona ti guardi negli occhi, sì. Se azzecchi quella parte lì, il resto è abbastanza in discesa, insomma, hai già fatto una buona percentuale del lavoro che devi fare, quindi parto da lì, così almeno se sbaglio la mollo lì subito e non sto a perdere tempo con un qualcosa che già è nato male. Ok, comunque, per chi non potesse vederci in webcam o ci sentirà in podcast, Andrea Musso sta disegnando me, che potrei avere un modello migliore, però pazienza. Questo passa alla biblioteca. Ah, ok. E infatti, giustamente. La serie Gatto Killer è molto curiosa, mi dicevi 5 volumi già. Eh sì, questo che è uscito da pochissimo, è il quinto, uh-huh. E tra l'altro è nel giro di 2 anni e poco più, perché al 17 di febbraio, che era il giorno del gatto, giustamente per essere coerenti, uscì il primo volume. E andai quella domenica mattina lì prestissimo a Radio DJ a presentarlo in onda, per cui fu quello il battesimo di, okay, di questo libro, di questa uscita, e evidentemente è andato molto bene, perché mi hanno rapidamente passato il testo del secondo, del terzo, e adesso abbiamo praticamente esaurito, questo è uscito da pochissimo anche in Inghilterra, quindi abbiamo esaurito la raccolta dei libri. Infatti quando mi chiedono quando il prossimo, dico ok, prima lo devono scrivere, oppure facciamo un esperimento, faccio i disegni, li passiamo all'autrice e vediamo che storia le viene, quella è l'unica chance. Questo non sarebbe affatto male, poi comunque quando non era, immagino non fosse sul mercato italiano questa serie di romanzi, o se c'era non era stata in questa veste, quando ottiene l'interesse tale da rincorrere velocemente la produzione originale e a portarsi in pari, direi che non è male. No, io sono contento, il tipografo che ho conosciuto, perché ero curioso, sono molto curioso di tante cose, sono andato a vedere come uscivano in stampa i libri e mi disse poi che insomma nel giro di brevissimo ci furono le ristampe, quindi quello è sempre un buon indizio, anche senza andare a vedere il dettaglio, perché quello attiene all'editore, però ero contento perché immaginavo che quindi stesse avendo un discreto successo come pubblico. Diamo qualche nome, visto che sono tutte eccellenze piemontesi, quindi la tipografia è A4. Ah sì, la cosa bellissima è vero, è Chivasso, e l'editore è Sonda di Casale Monferrato, quindi di per sé belle, sì, eccellenze regionali. In realtà sembra una cosa fatta per vicinanza e per comodità, in realtà è fatta per eccellenza, perché se pensiamo che da Bao a tantissimi altri editori italiani scelgono questa tipografia per la sua grande qualità nella produzione, e io l'ho vista con mano, e niente, anche autori stranieri che hanno visto la loro stampa in versione italiana a volte si sono stupiti perché la qualità era migliore dell'originale, e quindi c'è davvero qualcuno che sa fare ancora molto bene il suo lavoro anche al di là dell'illustratore, e che alla fine, sommando il tutto, viene fuori un bel risultato. Esatto, c'è molto anche artigianato, anche con grandi macchine nella tipografia, e questo ho già invitato, e prima, appena sarà possibile organizzarsi, avevamo un po' timore con Francesco Bosco di A4 di rischiare di andare troppo sul tecnico, però no, sarebbe bello parlare anche di questo. Lo diciamo qua, Francesco, ti aspettano. Ok. fantastico. Sei obbligato. Ok, fantastico. Tra l'altro non so, non è una coincidenza, non sapevo neanche io che fossi stato a 4 a stampare questo libro. Quindi i casi della vita. I casi, tutto torna, niente succede per caso e ci sono le statue con 4 dita, no? Come in Lost. Niente succede per caso. Più che citare delle boiate nerd, non riesco a fare altro. Qui hai sentito la sigla. Io purtroppo ti seguo a ruota, quindi. Vabbè, bene. Nel senso, se poi mi citassi Kafka, che poi secondo me era un po' nerd anche Kafka, quindi. E questa serie ti, come è cambiato il tuo rapporto con questa serie? Dal primo hai avuto un po' più di, dovevi aggiustare il tiro e poi pian piano conoscevi già, quindi dovevi cercare ogni nuovo libro qualcosa di nuovo da metterci, qualcosa di. Sì, il primo è stato un po' il più complicato. Io ho il grosso difetto di annoiarmi, quindi per evitare di annoiarmi e poi quindi non finire le cose oppure semplicemente non divertirmi, che è il motivo, credo uno dei motivi che mi può portare a far bene il mio lavoro, non ripeto sempre lo stesso stile identico super riconoscibile come scelgono di fare alcuni autori, ma all'interno delle cose che so e posso fare, certo, nelle mie corde, cerco di sviluppare stili differenti. E quando si è trattato di fare questo volume, mi sono messo giustamente da illustratore nei panni di chi poi lo dovrà leggere e mi sono chiesto quale poteva essere lo stile giusto fra quelli che avevo nell'epoca utilizzato. E io avevo cominciato a disegnare con la sinistra, pur essendo destro, su suggerimento di un insegnante quando ero all'Istituto Europeo di Design. Okay. Mi sembrava una grandissima cavolata. Invece devo ringraziare Giulia Orecchia, che era la mia insegnante dell'epoca, una grandissima illustratrice, perché mi ha un po' ammorbidito. Questo senso di non controllo completo del tratto ti toglie quel segno molto forte e un po' disneyano che lei vedeva all'epoca nel mio tratto e mi ha fatto scoprire una via nuova. Sì. Adesso, per questioni di comunque fare le cose sempre con la corda di sicurezza, lo faccio con la destra, ma ho imparato a rilassare un po' e quindi sì, a non essere così rigido. Questo abbinamento con l'acquarello e la scelta delle proporzioni, insomma, nei soggetti che ho tirato fuori, sui gatti non ho problemi perché gli animali fanno parte della mia vita sia vera e quotidiana che immaginifica, e ne ho disegnati tantissimi, e proprio alcuni che ho disegnato sono stati quelli che hanno visto dalla casa editrice, che hanno portato a scegliere me, quindi su quello ero abbastanza tranquillo. Certo, il casting, diciamo che per la mamma della bambina è stato impegnativo, perché gli altri personaggi più o meno andavano tutti bene. La mamma della bambina l'avevo fatta un po' sovrappeso e con una strana pettinatura, non era piaciuta, e allora ne ho disegnate 3 o 4. Ah, ok. E quindi alla fine hanno scelto alla carte quella che piaceva di più e poi è diventata in tutti i disegni la mamma. Quindi ci sono stati degli aggiustamenti all'inizio. Poi andando avanti ho detto bene, il resto sarà un po' in discesa perché comunque ormai il tutto è più o meno stabilito. In effetti come tempi di realizzazione pratica era vero. In realtà queste avventure sono sempre diverse, in alcune sparisce tutta la famiglia e arrivano personaggi nuovi, in altri compaiono, come in questo, tantissimi gatti, anche gatte in particolare, perché il gatto killer innamorato ricorda tutti i suoi amori nella vita, e quindi la descrizione di questi gatti, del loro carattere, di come sono fatte anche delle razze, di tante altre cose, è un qualcosa che a cui sono stato molto attento, che però mi ha costretto ovviamente a inventare personaggi nuovi ogni volta, e addirittura nel molla quel libro Gatto Killer, che è il quarto della serie, la bambina con gli occhiali, amante dei libri che c'è in questo volume, che insomma fa la sua comparsa in questo volume, è la figlia di Francesco il tipografo, che una volta ho visto in un laboratorio e ho detto, caspita, mi sembra una bambina che sia il contrario di una bambina bionda, di una bambina con i capelli lisci e della bambina senza occhiali, quindi deve essere mora, riccia e con gli occhiali. Ma io l'ho disegnata una bambina così, l'ho disegnata e poi mi sono ricordato che in realtà avevo attinto dalla mia memoria visiva ed era proprio lei, e quindi c'è sempre un pezzo di vero nelle illustrazioni. Ok. Qualche retroscena. Ma secondo me anche il fatto che questo gatto sia killer, che poi è gatto killer perché c'è un elemento nella storia, o il gatto è killer a prescindere, cioè il gatto. Allora, qui facciamo vedere delle stimmate di un gatto che è sufficientemente killer. La natura lo vorrebbe. Che si chiama Rocket, il mio si chiama Rocket, come il procione dei Guardiani della Galassia. Sì, la natura lo vorrebbe killer. In realtà quelli di oggi non sono altro che killer di bustine di pappe. Ma hanno sempre un bel caratterino. Eh beh, sì. E quindi in realtà qua è quasi tutto frutto di un errore giudiziario, perché alla fine se c'è qualcuno che ha le unghie e quando c'è bisogno di dare la colpa a qualcuno, perché non dare la colpa a qualcuno che di per sé sarebbe il carnefice perfetto? Beh, certo, infatti. E quindi si dà subito la colpa al più probabile. Esatto. E che non è detto che sia in realtà quello. Okay. E creando nel tutto un effetto abbastanza comico. Ok. Piuttosto comico. Quindi. Adesso senza svelare nulla, però questa nomea gli è rimasta attaccata, anche se non era poi alla fine così meritata. Ok. E comunque c'è questo elemento, allora dici, del gatto killer, allora è un po', ha un caratteraccio, è un po' il motore degli eventi anche per contrasto. Ah beh, certo che se nascono i libri e nel primo si confessa, quindi alla fine viene fuori un po' tutto quello che ha fatto. Ah già, il primo è confessione di un gatto killer, certo. Il secondo invece, improvvisamente questo gatto killer arriva al momento natalizio, che è un momento, tu immaginati, di alberi di Natale, pacchettini, fiocchetti, bambini che arrivano a casa, che gridano, che vogliono giocare con lui come se fosse un pupazzo. I presupposti per un gran casino ci sono. Beh, certo. Poi questo gatto, appunto, nelle varie successive versioni succede che una volta scappa di casa perché non si sente apprezzato, quindi vuole fare il gatto di strada, dice d'altronde noi ce la siamo cavata per migliaia di anni, siamo predatori eccetera, poi si rende prima che gli umani cominciassero ad adorarci già ce la cavavamo benissimo, prima che ci disegnassero sulle pareti delle piramidi noi eravamo insomma liberi, e scopre che in realtà la vita del gatto libero non si attaglia tanto bene a quello che è poi il suo gusto alimentare, ad esempio, che è molto raffinato. Okay. E quindi mangiare le cose che trovi in giro, che cacci, a volte fa un po' schifo. E questa è la dura realtà con cui impatta. E poi c'è il famoso episodio ambientato per la gran parte in una libreria. E quindi molla quel libro Gatto Killer, ti fa già capire che anche in questo caso i gatti, dove li metti, comunque hanno le loro abitudini, si fanno le unghie un po' dove gli pare, saltano sugli scaffali e possono nascere un sacco di qui pro quo. Diciamo che un editore americano una volta mi ha detto "Everything that has to do with cats has a market". Mi ha detto che mi raccontava che tutto ciò che aveva a che fare con i gatti ha un mercato. Però diciamo che per questioni di carattere, di rapporto col mondo, eccetera, la storia da raccontare quasi sempre, quando ci metti un gatto di mezzo, ce ne sono parecchie. Beh, d'altronde anche Elio ha chiamato un suo album Gattini, tanto per dire che insomma su internet è una delle cose che si trova ovunque, che ha sempre grande seguito. Esatto, esatto. E infatti cominciavano anche a fare i meme con i gattini, però con le spiegazioni scientifiche, ci sono le varie varianti. Vabbè, internet succede di tutto e di più. E invece, no, invece di parlare di gattini, parliamo di Albatross, che non è Samuel Taylor Coleridge, nessuno ha ucciso l'Albatros, ma è una canzone dei Fleetwood Mac, prima che fossero i Fleetwood Mac più famosi. E oggi siamo rilassati, abbiamo cose strumentali ad ampio respiro, e Fleetwood Mac, Albatros. solo nuvolette. Dai fumetti al pop. Viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. E la soddisfazione di condurre un programma di questo tipo è che io adesso non solo ho una bellissima copia di Gatto Killer Innamorato, ma anche con un disegno di me un po' sghimbescio, però evidentemente hai interpretato esattamente quello che vedi, quindi oggi sono abbastanza storto. No, la cosa che mi colpisce molto è che tu hai uno stile a volte con i bozzetti molto realistico, invece gli hai dato un taglio molto fumettistico. Un po', cioè fumettistico sintetico, perché alla fine il fumettistico è una sintesi un po' più umoristica. Sì, dovendo fare... Allora, innanzitutto partiamo da una cosa, è come un firmacopie. Ok. Con la differenza che gli autori se la cavano con uno scarabocchio, chi scrive un libro, e dall'illustratore invece ti aspetti sempre, come dice Zero Calcare, i disegnetti. I disegnetti. Ecco, e allora siccome i disegnetti a volte ci sono tanti bambini che li vogliono tutti insieme, okay, la pazienza non è quella forma del di fan, sintesi. Sempre esatto. Da necessità a virtù. Ok, certo. Comunque molto bello, grazie Andrea. E tu sei anche uno degli organizzatori, cogliamo questo ultimo quarto della trasmissione per parlarne, di un festival ad Alessandria che si chiama Inchiostro Festival. Sì, Inchiostro Festival è un qualcosa che quando si è svolta l'ultima edizione? Il giugno scorso. Il primo weekend di giugno. Okay. Quando ad Alessandria fa caldo, okay, quando si sta bene, molto bene all'aperto, perché è un festival che accoglie. Io dico sempre che alla fine, dopo la prima edizione, che abbiamo capito che cos'era, perché finché non lo fai non capisci che cos'è. C'è una ricerca artistica anche in quello. Devi... Sì. E la definizione era il problema. Io a un certo punto, guardandomi in giro, ho detto: ma è come il Club Med dell'illustrazione. Cioè alla fine ti danno un pass, ci sono un sacco di persone che vengono da fuori, stanno qua un paio di giorni, dormono qua, stanno sempre chiusi in un posto come in un villaggio turistico, okay, si divertono, hanno il pass che fanno vedere in giro, quindi mangiano, bevono, mostrando un qualcosa che fa capire che loro fanno parte dell'organizzazione, fanno qualcosa che li diverte, viene un sacco di gente da fuori, ci sono problemi di parcheggio, insomma tutte le classiche cose che... si fanno in vacanza quando c'è bel tempo, qualcuno prende il sole. Questo vecchio chiostro di questa chiesa che è nel cuore di Alessandria, in Borgo Rovereto, Santa Maria di Castello, noi abbiamo deciso con i colleghi cofondatori, che sono poi Riccardo Guasco, Luca Zanon, Guido Bisagni, che è uno street artist, Luca invece è un architetto, Riccardo è un collega illustratore e un organizzatore di eventi, musicista, che è Giancarlo Sansone, che è anche presidente dell'associazione che organizza Inchiostro Festival. Tutti insieme, a forza di parlarne, alla fine è diventato realtà. Abbiamo organizzato questo primo festival che fondamentalmente non è nient'altro che fogli bianchi, qualcosa più di 30 illustratori, i migliori che ci venivano in mente, che abbiamo invitato da tutta Italia e qualcuno anche dall'estero, chiusi per due giorni in un chiostro del 200, in un ambiente bellissimo col pratino, così, a lavorare con dei fogli dove possono fare quello che vogliono. C'è un tema ogni anno, l'anno scorso era Mappamondi, l'anno prima era Antipodi e quest'anno è Traiettorie, che però hanno un respiro molto ampio, quindi questi autori trovano dei fogli bianchi, sanno che possono lavorare in bianco e nero, con la tecnica che vogliono, e la gente cosa fa? Sbircia come lo zoo, però senza che nessuno subisca maltrattamenti per questo, questi illustratori che normalmente fanno tutto questo in un ambito tranquillo, riservato, molto privato nel loro studio, lo fanno in pubblico e con la gente che li guarda, che gli fa le domande. Inizialmente sono un po' scioccati, però poi si abituano bene, e la cosa bella è che noi li mettiamo due a due sotto ogni arcata di questo chiostro antico, e quindi si trovano anche col compagno di banco, una cosa che non gli succedeva dalle elementari, e quindi cominciano a interagire tra di loro. Poi l'ambientazione ovviamente non si svolge solo durante la giornata, ma anche la sera, in cui subentrano. Durante il giorno ci sono presentazioni, incontri, anche cose oltre il lavoro manuale, ma la sera anche una parte più legata allo spettacolo, anche se l'illustrazione è sempre al centro di questa attività, quindi musica, e fino alle 2 di notte. E poi domenica si riparte, dentro si può mangiare, bere, comprare originali, comprare stampe, guardare, partecipare a workshop, perché ogni autore ha la possibilità di spiegare come fa a fare quello che fa, e quindi ha un workshop di un'oretta. La gente si iscrive fin dalla settimana precedente online sul sito inchiostrofestival.com e partecipa gratuitamente, così come gratuito all'ingresso, a questa mini lezione che è sempre molto, insomma, piace tantissimo. Anche io che organizzo vorrei partecipare a tutte, cose che non posso fare. I colleghi sono tanti e ci sono anche dei calligrafi all'interno insieme agli illustratori, che è anche lì una cosa manuale, tutto in analogico, un po' persa, che noi invece vogliamo riportare al centro. E in ultimo ci sono gli stampatori d'arte, per cui mini tirature prendono vita durante quei weekend in serigrafia, stampa caratteri mobili, incisione, quindi tutta una serie di tecniche con stamperie da tutta Italia che sono incredibilmente attivissime, perché si immagina che sia un qualcosa di quasi perso, invece in realtà vi dico che lavorano tantissimo e l'eccellenza della capacità manuale italiana non è solo nell'illustrazione, nella calligrafia e nella stampa, e non lo era solo nel passato, ma anzi è sempre più attuale e di ritorno, e noi stiamo diventando il crogiolo di questa creatività che ci piace tantissimo portare lì, e non solo per gli alessandrini, perché viene tantissimo pubblico. L'ultima volta erano poco più di 5.000 persone in un weekend, e quindi ci resta, piace. Questo è molto interessante, perché poi di per sé, allora, intanto porti gli artisti un po' fuori dalla loro nicchia, perché si dice sempre che l'illustrazione, io più frequentazione conosco bene l'ambito del fumetto, quindi di per sé lo dicono i fumettisti, ma di per sé illustrazione, tutte queste arti sono cose molto di cui vedi l'inizio e la fine, e poi tutto è tutto lavoro fatto in genere da soli davanti al tavolo da disegno. Invece porti questi artisti fuori davanti a un pubblico. Sì, dall'artista ti aspetteresti la mostra, cioè il lavoro finito, sì, e l'artista, esatto, che ne parla. Esatto. Lì invece l'artista mentre lo fa. È molto bello. Poi a me viene in mente Giacomo Bevilacqua, che aveva fatto l'autore di A Panda Piace, che aveva fatto una vignetta su se stesso in panico tra quello che vorrebbe fare, il disegno che dovrebbe fare in privato, e poi lo schizzo, lo sgorbio che gli viene fuori solo perché ha qualcuno che sta guardando. Ti assicuro che il divertimento di mettere Francesco Poroli, ad esempio, okay, uno per tutti, che è un illustratore italiano che lavora in digitale e in vettoriale, okay, quindi diciamo illustrator fondamentalmente, okay, sulle più grandi riviste italiane, clienti esteri, lo metti a contatto, gli togli tutto il digitale e resta l'analogico, okay, e in bianco e nero. E era un po' in panico per questa, sì, cosa. In realtà ha fatto delle cose bellissime. È stato addirittura uno di quelli messi insieme con una stamperia a caratteri mobili di Roma. Hanno fatto lavori insieme bellissimi. E secondo me è come quando cammini sui carboni ardenti. Cioè, alla fine, quando arrivi dall'altra parte, dici: ok, posso fare qualsiasi cosa adesso. È un po' un esperimento, anche perché in molti, da questo mondo digitale, in realtà, spesso ci restano intrappolati, e riscoprire, tornare un po' indietro alla manualità è un qualcosa che pensiamo che porti anche non solo un risultato di lavoro differente, ma ti faccia fare anche processi mentali diversi rispetto a quando lavori al computer. Ma infatti è uscito fuori un elemento molto interessante anche della mano sinistra, del disegnare con la mano sinistra, che è qualcosa che non si dice quasi mai. C'è tanta affabulazione e chiacchiera intorno al mondo dell'arte, dell'illustrazione, ma tante volte l'importanza di portarsi fuori dalla comfort zone, dalla zona di comfort, e quasi sempre trasmette qualcosa d'altro, e non c'è niente di peggio di un artista che ha trovato la sua nicchia e poi si rimane sempre sullo stesso punto. Guarda, io ho visto un artista al festival che verso sera in contemporanea ha cominciato lo stesso disegno con la mano sinistra e la mano destra insieme, e li ha disegnati insieme in contemporanea con noi che la guardavamo ad occhi sgranati, e ha fatto questo esperimento per vedere cosa succedeva. Quindi, mettendosi tutti insieme, salta sempre fuori qualcosa di nuovo, come quando shaker ingredienti che, esatto, non si sono mai mescolati prima. Insieme a questi, noi ci teniamo molto a mescolare anche una parte giovane, nonostante il festival noi abbiamo tra i 30 e i 40 anni noi organizzatori, ma tra i 16 e i 25 c'è il concorso giovani di Inchiostro Festival, che da adesso, da inizio anno, arriva fino alla fine di maggio. Giovani per davvero, come Alessandro, non sì, come non me, giovani te, per finta, esatto, perché in Italia i giovani vengono considerati giovani fino a età imbarazzanti, no, fino ai 25 anni. Quindi la tematica, il tema è lo stesso, il formato è lo stesso, il bianco e nero è lo stesso per gli autori ospiti del festival. Si può partecipare gratuitamente, basta spedire la propria opera, e sul sito c'è il bando e tutte le informazioni. Il premio cos'è? I primi 10 vengono selezionati da noi del direttivo e vengono inseriti in mostra durante il festival. Gli autori ospiti del festival selezionano tra questi 10 i migliori 3, quindi c'è una doppia selezione. Questi 3 l'anno successivo si siedono e hanno un loro posto vicino ai professionisti per lavorare con loro, insieme a loro. E gli ospiti che abbiamo avuto quest'anno, i ragazzi più giovani, nel frattempo devo dire, abbiamo scelto bene, hanno fatto cose fantastiche, ci hanno reso veramente orgogliosi, pubblicato libri a fumetti, collaborazioni, mostre a Parigi, in Russia, quindi sono diventati bravi per davvero, anche se già lo erano. Uno di questi è in mostra ancora adesso, parliamo di ad esempio Martoz, Alessandro Martorelli, è in mostra a Vicenza, perché fino a fine mese c'è Illustri, quindi se Inchiostro Festival è un festival del lavoro fatto sul momento, una delle grandi altre capitali dell'illustrazione italiana è Vicenza. Io vi suggerisco, perché ci vado sabato, di andare a vedervi Illustri, quindi non parliamo solo di Inchiostro, ma parliamo anche di Illustri, una fantastica serie di mostre con tantissimi illustratori, Riccardo Guasco, Francesco Poroli, tutti quelli che avete sentito fino adesso, fino al nostro vincitore del concorso giovani, anche lui selezionato tra i saranno Illustri, quindi tra i più giovani del festival. Quindi a giugno arriverà Inchiostro, fino ad allora avete tempo per partecipare al concorso, e invece già adesso, prima della fine di gennaio, prima che finisca tutto, si fa ancora in tempo a fare un rapido giro e vedere le molte mostre che abbelliscono Vicenza in questi giorni. Comunque che questi giovani artisti scelti da voi poi abbiano una prosecuzione di carriera e si mettono in luce in così breve tempo, direi che è una soddisfazione di per sé, forse la migliore possibile per chi organizza un festival. Sì, tutto merito loro, nel senso che hanno partecipato, hanno però messo... voi avete avuto l'occhio per scegliere. Ecco, noi ci abbiamo messo giusto l'occhio, è un po' di vetrina, però per il resto il lavoro è tutto loro, noi siamo contentissimi di vedere che questo lavoro, che è quello dell'illustratore, prenda sempre più una sua dignità e una sua anche diffusione, per cui ci sono più luoghi e più occasioni, quindi anche per i giovani autori. A me personalmente è capitato anche di avere alcuni viaggi di lavoro negli Stati Uniti nell'ambito del fumetto e illustrazione, e mi sono accorto anche con un networking party che il livello medio italiano, questo detto al di là della retorica, è un po' più alto. Secondo me, per questione banalmente, per questione positiva, il patrimonio degli artisti stessi. Cioè, quando queste conoscenze vengono trasmesse, un artista che incontra un insegnante che è in grado di dargli il percorso abbreviato probabilmente diventa un professionista prima e anzi magari viene anche stimolato a esplorare ulteriormente, va oltre. Io credo che noi in Italia siamo in una culla di arte e di bellezza visiva unica, non ce ne rendiamo conto. E queste cose qua, alla fine, setacciandole col nostro modo di sentire, di vedere, di disegnare, saltano fuori alla fine. Motivo per cui Riccardo, ad esempio, Guasco, che è uno dei cofondatori, sta lavorando adesso da 6 mesi in Inghilterra, ha trovato clienti stranieri, alcuni degli autori citati sono stati premiati con la medaglia d'oro dalla Society Illustrator of New York, quindi sono autori che pochi nel mondo vengono scelti e molti sono italiani, perché comunque piace moltissimo il nostro stile. Simone Massoni, che fu ospite un paio di edizioni fa, ha fatto il libro dell'anno per il New Yorker, cioè la rappresentazione di New York e della sua storia è stata disegnata da un italiano fra i tantissimi illustratori stranieri, non solo americani, che collaborano con il New Yorker, una delle riviste più prestigiose del mondo. Quindi a me piace fare gli esempi non miei ma dei colleghi, per dire: ogni volta che ti giri un attimo scopri che c'è qualcuno che ha fatto cose magnifiche, e secondo me sì, c'è tantissima capacità in Italia, quello che mancava era magari il valorizzarla. E quindi ringrazio Ale Giorgini, che a Vicenza ha fatto quello che sta facendo con Illustri, e dico per fortuna anche ad Alessandria, oltre a fare grandi risultati nel calcio come ieri sera, sta nascendo qualcosa di veramente bello, perché con la quarta edizione andiamo a consolidare un festival della manualità e della creatività che lascia il segno. Certo. Guarda, hai fatto una chiusa perfetta, quindi io non posso fare di meglio. Quindi ti chiedo ancora qualche coordinata. Abbiamo detto comunque inchiostrofestival.com è l'indirizzo del sito ufficiale del festival. Poi siamo molto social, siamo basati sulle immagini, quindi da Instagram a Twitter, a Facebook, a YouTube, a Flickr per le foto. Okay. Quindi tornando ad Andrea Musso, invece, tutto. Le tue coordinate spazio-temporali, che ho visto che sei stato molto social friendly, perché hai condiviso subito la partecipazione alla trasmissione, mi arrivavano notifiche ovunque, quindi ho detto questo è uno che sa usare i social. Beh, la mia attività nel festival è, oltre a curare l'ufficio stampa e a tutte le altre cose pratiche come spostare masserizie. È un'attività... È sempre la parte più divertente, quella libera, sì, libera il cervello. Fantastica, la palestra dell'illustratore. C'è la parte relativa al social media manager e a tutta la parte promozionale. Quindi, okay, facendolo per il festival, facendolo per me, facendolo per lavoro, anch'io... su Facebook, Twitter, Instagram e in tutti gli altri contenitori social bene o male mi trovate e interagisco sempre molto volentieri, anche se la cosa che preferisco sono gli incontri di persona, certo, e quindi l'interazione al Salone del Libro, a tutte le altre iniziative in cui si partecipa e ovviamente a giugno il primo weekend Inchiostro Festival, certo, dal vivo è sempre la versione migliore perché scatta anche una birretta e esatto, è un qualcosa che in versione digitale purtroppo non si può riprodurre. Godetevi i video, godetevi le foto e nel frattempo prenotatevi. Esatto, grazie Andrea Musso, è stato un piacere averti qua, ci siamo conosciuti tipo 4-5 anni fa davanti a una birretta, poi è passato tutto questo tempo, però la birretta è fondamentale, birretta è un veicolo di conoscenza. Esatto. Grazie Andrea Musso, sono solo novelette chiude, vi dato appuntamento la prossima settimana con ancora un pezzo e anche qua andando vagando tra cultura musicale e Deezer sono andato a sbattere, stavo cercando Jeff Beck invece ho trovato Jeff Buckley e comunque Jeff Buckley vuoi non mettere Grace? It's my time coming, I'm not afraid.